consente di trasferire contenuti dalla propria console alla console di un'altra persona, una volta dato chiaramente le previe autorizzazioni, anche inconsciamente, nel senso che io posso andare, salire sul tram, senza sapere che c'è un'altra persona col 3DS sul tram e passarmi dei contenuti con questa persona, delle componenti di gioco, per esempio, così come posso invece arrivare sotto un hotspot pubblico o privato, se ce l'ho a casa, e scaricare ulteriori contenuti da questo hotspot, che possono essere non necessariamente contenuti puramente ludici, come giochi o esempi di giochi, ma possono essere dei filmati in 3D, possono essere dei trailer di film in 3D che Nintendo mi mette gratuitamente a disposizione e che io posso scaricare sulla mia console. Sì. A proposito di 3D, diciamo che stiamo parlando di una console che non richiede gli occhialini per vedere in 3D. Sì, la peculiarità del 3DS è proprio questa, il fatto di poter giocare o vedere contenuti in 3D senza usare gli occhialini. L'altra cosa da dire, perché spesso questa cosa un po' preoccupa il 3D, infonde terrore o comunque timore di fastidio agli occhi, è una funzione che si può anche disabilitare. Disattivare, sì.